Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Meis, questa sera andiamo a Costa Masnaga, in provincia di Lecco, al centro di riabilitazione di Villa Beretta, che fa parte della congregazione dell'ospedale Valduce di Como, dove sono specializzati nella riabilitazione di persone che hanno subito danni neurologici, per esempio in seguito a traumi gravi oppure a infarti o ictus. A Villa Beretta è appena arrivato un robot che si chiama RP Light ed è una sorta di avatar che specialisti da tutto il mondo, in teoria da tutto il mondo, possono prendere in prestito per visitare a distanza i pazienti. Ne parliamo con Mario Guidotti, che è primario dell'unità operativa di neurologia dell'ospedale Valduce di Como. Buonasera Guidotti. Buonasera a lei, grazie della telefonata. Allora, senta, RP Light, questo robot, intanto ce lo descriva un po' fisicamente, diciamo così, anche per quello che sa fare. Ma è uno strumento vagamente umanoide che ha una base di 45 per 50 centimetri con quattro ruote, si sposta molto facilmente, ha un'altezza che varia da 1,60 a 2 metri a seconda di che sviluppo se ne vuole far fare, ed è uno strumento che consente di vedere ciò che avviene. Ecco, c'è uno schermo ambiente. Al posto della faccia, diciamo così, in questa descrizione umanoide, e uno schermo dove c'è però la faccia di un medico, che è quello che sta visitando. Ecco, compare la faccia del medico che è collegato. Perfetto. E cosa si può fare appunto attraverso questo robot? È possibile visitare l'ammalato, non soltanto vederlo, non soltanto valutarlo, girandogli intorno e zoomandolo con una risoluzione veramente di altissima raffinatezza, ma anche è possibile collegare alcuna strumentazione, è possibile attaccare al robot per esempio una registrazione elettrocardiografica, elettroencefalografica, ecografica e anche più complicata come TAC, risonanze magnetiche, cioè il medico che compare non soltanto vede l'ammalato ma vede tutta la sua documentazione clinica. Ecco, anche può ascoltarlo, c'è un fonendoscopio che posizionato sul malato fa sentire al medico specialista a distanza remota i battiti del malato. Perfetto, ecco come si svolge, così togliamo anche il dubbio che a un certo punto uno si trova lì nella stanza, entra un robot e dice ma che vuole questo? In realtà c'è del personale medico, ecco come avviene tipicamente una di queste visite? Allora succede che noi abbiamo ricoverato i nostri malati in stroke unit che devono essere valutati dal riabilitatore che è a distanza di 30 km da qui appunto a Costa Masnaga, noi prendiamo contatto col centro di ingegneria clinica, a una certa ora ci diamo appuntamento, a quel punto compare la faccia dello specialista di Costa Masnaga e io vado dal malato che deve essere visitato, previo ovviamente averlo avvisato faremo un teleconsulto, il quale teleconsulto non è soltanto bilaterale ma si può inserire anche un terzo e un quarto specialista. Perfetto. Noi recentemente abbiamo valutato una malata particolarmente critica vedendola da qui, cioè da Como a Costa Masnaga, con l'intervento anche del dottor Molteni che era a Filadelfia. Perfetto, perfetto. Perché lui la conosceva e quindi ci poteva dare delle dritte sull'andamento della malata che noi non conoscevamo. Ecco, insomma ci sarà del personale medico locale e un numero a questo punto imprecisato di specialisti che possono intervenire nel momento della visita dando consigli e quant'altro. Senta, esatto, quali sono teleconsulto. Esatto, ecco, e quali sono le situazioni in cui più vi aspettate che faccia la differenza? Allora, noi attualmente abbiamo messo in essere un percorso soltanto finalizzato alla neuroriabilitazione, cioè noi non ci spostiamo più al centro di Costa Masnaga e loro non vengono più qui, ma visitiamo a distanza di 20-25 km i malati e questo l'abbiamo preso per 6 mesi. Però abbiamo capito fin da subito che questa strumentazione si presta moltissimo per il malato acuto, perché in neurologia il malato acuto perde milioni di cellule cerebrali. Cioè, c'è il famoso ictus o infarto cerebrale, esatto, come lo vogliamo chiamare. Da quel momento, da quando avviene, parte una specie di conto alla rovescia. Ci sei poco tempo? Quanto tempo per salvare ore per al massimo? Per salvare vita e funzione abbiamo un tempo di 4 ore e mezza, che sembra tanto, ma guardi che è pochissimo. Sì. Ora che il malato se ne accorge, cosa non scontata perché raramente c'è il dolore, ma c'è soltanto un impaccio di funzione. Il malato deve recarsi in un pronto soccorso, deve essere valutato, deve essere riconosciuto, devono essere fatti degli esami del sangue. E devono essere poi somministrate qualcosa per tempo che faccia anche effetto, esatto, insomma. A quel punto, fatta la diagnosi, bisogna intervenire subito con una terapia che si chiama trombolitica, che va a sciogliere il trombo e Certo, abbiamo 4 ore e mezza, ma prima la faccio meglio è, cioè in questo caso il certo. tempo è cervello. Cioè più passa tempo, più danni irreparabili comunque si producono. Confermo, e lei capisce che in un pronto soccorso dove non c'è una guardia neurologica e ce ne sono, ahimè, non è possibile avere specialisti su tutto il territorio, generalmente noi abbiamo un contatto telefonico e il malato viene subito spedito in neurologia, però bene o male passa un'altra ora di tempo. Se invece fosse possibile tramite il robot vedere il malato a distanza, vedere i suoi esami, vedere la sua TAC e dire al medico di pronto soccorso ok, comincia subito. La terapia trombolitica, questo il malato guadagna un'ora di tempo e probabilmente casi. Anche risparmia qualche paralisi o peggio. Grazie allora Mario Guidotti e avanti così. Grazie a voi, buona serata a tutti. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani, buona serata. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.